In the lift. In ascensore. It's a beautiful hotel. Yes, è molto bello e molto antico. Del XIII secolo. 13th century. Really? Well, I hope the bathroom's a bit more modern. I love the English sense of humor, especially in a beautiful woman. No, il bagno non è antico, è modernissimo.